5A. Ascolta e trasforma. Devo scrivergli. Gli devo scrivere. Devo telefonargli. Gli devo telefonare. Devo rispondergli. Gli devo rispondere. Vuole mostrarmi le foto? Mi vuole mostrare le foto. Vuole impormi le sue idee. Mi vuole imporre le sue idee. Vuole chiedermi una cortesia. Mi vuole chiedere una cortesia. Possiamo parlarvi di un nostro problema? Vi possiamo parlare di un nostro problema? Possiamo raccontarvi la nostra avventura? Vi possiamo raccontare la nostra avventura? Possiamo consigliarvi un film? Vi possiamo consigliare un film?